109 tra allevatori e produttori risultano indagati nell'ambito di un'indagine sulla mozzarella di bufala alla diossina. I carabinieri del NOE e del NAS hanno passato al setaccio 25 caseifici e 60 allevamenti del casertano. L'operazione è scattata dopo le analisi di laboratorio che hanno rivelato nel latte venduto ai caseifici valori di diossina oltre i limiti di legge. I carabinieri hanno sequestrato mozzarella di bufala che stava per essere immessa sul mercato, mentre non è stato possibile al momento accertare la quantità di prodotto già venduto. Numerosi i capi di bestiame ispezionati. Secondo i riscontri effettuati, il latte avvelenato proviene da bufale nutrite con mangime di terreni infettati dai rifiuti tossici, territori di proprietà diretta o per interposta persona della criminalità organizzata, dove per decenni si è sversato di tutto. L'ipotesi di reato per gli indagati è di avvelenamento di sostanze alimentari e commercio di sostanze adulterate. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.